Giovedì 20 giugno del 2013, 87.9 la modulazione di frequenza. Questa è Radio Onda Rossa. Dal 1977, senza padrini, senza padroni, la voce di dei senza voce, la radio di chi se la sente. E chi se la sente può contribuire a farla vivere, sottoscrivendo sul numero di conto corrente postale 6180-4001 da intestare a Radio Onda Rossa, via De Volci 56, 00185 Roma. Oppure consultando il sito della radio ondarossa.info, la voce sostieni sulla homepage troverà la modalità PayPal. Siamo all'appuntamento con Visionari, il cinema su Onda Rossa, ogni giovedì dalle 14 alle 15. La scaletta la trovate sul sito alla voce trasmissioni Visionari. Gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 20 giugno, i nostri suggerimenti, indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda il piccolo schermo, gli altri appuntamenti della settimana tra rassegne, festival e proiezioni. E poi il link che rimanda alla puntata precedente all'archivio del 2013 e del 2012. Diamo inizio ai nostri collegamenti. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Abbiamo anche la pagina Facebook di Visionari. In collegamento con Francesca Pigianelli, curatrice della rassegna di cinema ospitata all'interno del Roma Vintage a Parco San Sebastiano, tutti i martedì dal 18 giugno fino al 16 agosto. Francesca, ben ritrovata. Ciao, ciao a tutti, grazie per avermi ospitato, grazie mille. Allora, raccontaci un po' le caratteristiche di questa rassegna di cinema che... Dunque, certo, allora, quest'anno abbiamo pensato di dedicarlo un pochino alla commedia italiana ed anche ai giovani autori italiani, perché come sapete io sono una promotrice del nuovo cinema italiano, quale esso sia, purché andiamo avanti anche i nostri giovani talenti. Quest'anno abbiamo scelto, come ti dicevo, la commedia, proprio perché si ha voglia anche un po' di sorridere, cioè anche con argomenti molto attuali, molto importanti, però lo possiamo raccontare anche ridendo. Giustamente. Ci sei? Sì, sì, ci sono. Eccoci. Allora, un appuntamento settimanale tutti i martedì. E come è articolata? Sì, tutti i martedì, anche con un cocktail di benvenuto a tutti i nostri spettatori, in presenza anche dei registi e in parte del cast presente, anche per intrattenersi con il pubblico e scambiare due parole. Vorrei citare alcuni film. Martedì prossimo avremo Ben-Hur, Un gladiatore in affitto, poi il 2 luglio il tanto discusso film Punto Rosso di Marco Carlucci, che anche voi avete sostenuto molto e che adesso finalmente uscirà anche in DVD, poi il 9 avremo un nostro tutor che è Paolo Genovese con Una famiglia perfetta, poi Outing, Fidanzati per sbaglio, La patente, Piazza giochi, Cupola. Come vedi, un programma ricchissimo preceduto da cortometraggi e videoclip. Ecco, come è articolata la giornata del martedì rispetto al cinema? E dicevi dei cortometraggi? Iniziamo, diciamo, l'apertura è verso le 21 sì. E 15, dove presenteremo appunto il film della serata, che sarà preceduto da un cortometraggio sì. Con gli autori o da un videoclip, perché poi c'è molta attinenza tra cinema e musica, quindi mi sembrava giusto omaggiare anche questi settori. Poi viene presentato il film e a fine serata si parla e si discute, si conosce anche il regista, insomma abbiamo il piacere di stare un po' come in una grande famiglia. Bene. Il posto è bellissimo perché si sta veramente bene, io sono contentissima di far parte di questa squadra del Vintage, perché sono veramente una bellissima squadra, quindi questo per me è primordiale per lavorare bene, quindi anzi auguro tutti gli spettatori, gli ascoltatori della vostra bellissima radio di venire, che ci farà immenso piacere. Se c'è anche qualche cortometraggio, videoclip da propormi, potete scrivermi, insomma, poi tramite voi, va bene? A questo punto dacci i riferimenti per vedere il programma. Per vedere il programma dobbiamo andare sul sito del Vintage, lì si va nell'area cinema e quindi c'è tutto il programma completo. Benissimo. Francesca... Eventualmente per segnalare un vostro videoclip o un vostro cortometraggio potete scrivere anche attraverso voi, insomma. Benissimo. Francesca, ti ringrazio, un abbraccio, grazie, e risentirci mille, presto. Buon lavoro, vi aspetto tutti, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Il professor Giovanni Spagnoletti, direttore della 49esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro dal 24 al 30 giugno. Giovanni, ben ritrovato. Grazie. Tutto bene? Tutto bene, sì. Un po' caldo, ma insomma. Beh sì, speriamo a Pesaro vada meglio. Senti, un'edizione che precede una tutto tondo, insomma importante, di preparazione in qualche modo. Ma sì, sì e no, nel senso che poi questo 50esimo si vedrà, 50esima edizione, si vedrà con i chiari di luna che c'è, magari. Ah beh, sicuramente. e la totale mancanza di soldi che caratterizza tutte le manifestazioni, ormai siamo alla frutta, ma non lamentiamoci, invece diciamo che un festival è una festa e quindi ci si deve divertire. Io spero di far divertire il mio pubblico con un programma basato su una retrospettiva di ottimo cinema cileno. Non lo dico solo io, ma insomma è un argomento ormai molto diffuso tra gli addetti lavori e non solo, con un concorso come al solito di 7 film, tra cui ben 2 film italiani, L'estate sta finendo di Stefano Tumbolini e Non lo so ancora di Fabiana Sargentini, che è un'opera prima, un film d'apertura in piazza che è il film di Boris Klebnikov, autore a cui abbiamo dedicato un omaggio nel 2010 col suo nuovo film che era passato a Berlino, un workshop di Daniele Gaglianone che con un gruppo di studenti realizzerà durante il periodo del festival un cortometraggio che poi verrà presentato nella serata finale. Insomma, tutta la rassegna curata da Adriano Pra, fuori norma, il cinema sperimentale italiano dall'inizio degli anni zero sino a oggi. Insomma, poi si spera che il nostro pubblico affezionato abbia a che divertirsi. Giovanni, per i più giovani si tratta di uno dei più antichi festival italiani, ecco, cosa si intende per nuovo cinema? Questa è una domanda delle 100 pistole. Negli anni 60 nuovo cinema era un concetto molto chiaro, era il cinema, diciamo, delle nouvelle vague francese, tedesca, del free cinema inglese e via dicendo, un cinema che si poneva linguisticamente e contenutisticamente in opposizione al cinema tradizionale, soprattutto al cinema hollywoodiano. Oggi è forse la stessa cosa, ma con il digitale, con la sperimentazione, con ecco, questo è, secondo me, il nuovo cinema. Se dovessi dare una definizione, sì, per me un film è un film di ambito contemporaneo che racconta una storia personale, ma non ombelicale, che tratta di una generazione, di un gruppo di persone e via dicendo, con mezzi il più possibile inconsueti e magari anche a basso costo, quindi insomma con degli ingredienti che più o meno erano quelli degli anni 60, ma che oggi sono diventati ancora più fondamentali tramite appunto l'innovazione delle macchine digitali e sì, la possibilità sì, di farsi dei film a bassissimo costo anche a casa propria con grande dignità, senza quindi perdere niente del valore del cinema, e questo credo che sia un po' sia una definizione molto ma molto ma molto generica di certo. Ecco, proprio rispetto a queste caratteristiche che hai elencato, che direzione ti sembra abbiano preso le varie cinematografie a livello internazionale? Quali sono ad esempio quelle che ti stanno destando più interesse? Hai citato chiaramente il cinema cileno che sarà ospite della rassegna, ma più in generale come Sai, noi di anno in anno cerchiamo di scoprire una nuova nazione che dà dei segnali di interesse e che si delinea, diciamo così, nei festival più alla page, più, diciamo, più svegli, come un luogo di sperimentazione, un luogo di formazione in gruppi di cineasti, quindi dipende, insomma, il Messico, nell'America Latina il Messico è sempre stato un paese che noi abbiamo seguito con interesse. L'Argentina e il Brasile sono le cinematografie con più lunga tradizione e che quindi continuano a essere molto brillanti. Il Cile per esempio è una novità, ma potremmo dire anche le Filippine, dall'altra parte del mondo, potremmo dire la Corea, ma la Corea ormai l'abbiamo scoperta già da tanti anni, e quindi insomma fa cinema sia a basso costo, sia sperimentale che come dire, commerciale. E insomma il Giappone è una cinematografia storica che produce sempre tantissime innovazioni, in Cina lo stesso. Insomma, poi più o meno i paesi sono quelli, ce n'è uno che emerge. Quest'anno nel concorso ho avuto una concorrenza di film che vengono dall'est Europa, che per me è un terreno completamente sconosciuto, quindi evidentemente anche da quelle parti forse io me ne accorgo in ritardo rispetto ad altri, si sta muovendo qualcosa. La Repubblica Ceca, quella slovacca, la Croazia e via dicendo, sono cinematografie che stanno vivendo una loro nuova vita e che quindi, come dire, esprimono una grande vitalità anche artistica, anche a livello cinematografico. Questo è quello che noi come tante altre manifestazioni, come dire, come la nostra, cerchiamo di mettere in evidenza, dato che poi i festival sono una sorta di circuito parallelo al circuito commerciale. Il circuito commerciale sta diventando sempre più standardizzato, soprattutto adesso con le sale digitali che lasciano ancora meno spazio, credo, alla produzione indipendente, e quindi i festival avranno sempre più la funzione di un secondo circuito rispetto al circuito normale, che è quello che è quello diciamo così, soprattutto dei prodotti dei blockbuster americani, hollywoodiani e via dicendo. Giovanni, ospiti? I nostri ospiti sono sempre ospiti, diciamo così, come in linea con dentro la retrospettiva cilena c'è un omaggio a Sebastian Lelio, che insieme a Pablo Larraín è forse il cineasta emergente più importante. Il film Gloria ha vinto al Berlino un importante premio, per un importante Orso d'Argento per l'interpretazione femminile. E quindi abbiamo un gruppetto di ospiti cileni, poi avremo appunto molti autori italiani, abbiamo una giuria in cui abbiamo questa volta cinque nomi, e quindi voglio dire al posto di tre tradizionali, e insomma cerchiamo, come dire, non solo per dovere di amor patrio, anche come dire tenere desta l'interesse per il cinema italiano, perché lo dico veramente senza fare il politicamente corretto, il cinema italiano ha sempre delle vitalità nascoste che ci mostra, e il fatto che quest'anno insomma sono due film in concorso rispetto a anni in cui non è mai stato presente il cinema italiano, questo secondo me dimostra anche che anche il cinema italiano, pur con lentezza, si sta un po' adeguando ai trend internazionali, sta diventando anche competitivo sotto molti aspetti. In chiusura, quante sono le opere che presenterete quest'anno? Guarda, ci sono un sacco di cortometraggi, soprattutto in fuori norma, opere brevi e via dicendo. Diciamo che sono una cinquantina di spazi divisi in tre luoghi, che sono appunto la rassegna Round Midnight, da mezzanotte in poi, curata da Antonio Pezzuto, poi il teatro sperimentale, che è la sede tradizionale del festival, e poi le proiezioni in piazza. Probabilmente, chissà, voglio dire, visto che l'Italia ha fortunosamente vinto la partita ieri sera, magari faremo anche una partita in piazza prima del film giovedì o mercoledì, chissà. Giovanni, come da nostra tradizione, perché il calcio è insieme al cinema la cosa che amiamo di più al Festival di Pesaro. Senti Giovanni, diamo i riferimenti internet per quanto riguarda la programmazione. www.pesarofilmfest.it. Benissimo, io ti abbraccio e a risentirci presto. Un abbraccio, grazie. Ciao Giovanni. Ciao ciao. Giovanni Spagnoletti, direttore della 49esima Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, dal 24 al 30 giugno. Ecco noi Redento Mori per parlarci del rapporto 2012, il mercato e l'industria del cinema in Italia. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Benvenuto a voi. Allora Redento, un rapporto che è stato presentato un paio di giorni fa qui a Roma, varie le strutture di riferimento, dici un po' di quest'anno 2012, cosa ha rappresentato per la cinematografia italiana? Una fonte di grande preoccupazione, visti i risultati nelle sale dell'anno scorso, che sono stati negativi dopo un 2011 che era già stato negativo di suo, e quindi si è ripetuta una situazione di criticità che è molto preoccupante per il cinema italiano. Questo però a fronte di una produzione che va vele spiegate. L'anno scorso sono stati prodotti 166 film, un numero mai raggiunto nella storia del cinema italiano, e con capitali oltretutto privati in ascesa, quindi abbiamo una grande produzione e per ora un riscontro del pubblico molto scarso a causa della crisi economica principalmente. In questo il digitale e quindi anche la possibilità della rete, che ruolo giocano? In Italia il ruolo della rete è ancora in arretrato rispetto agli altri paesi europei, ad esempio la Gran Bretagna, la Germania, la Francia. Sta crescendo molto il mercato in digitale, perché cresce a doppie cifre ogni anno, 12, 15, anche 20%, e penso che quest'anno, 2013, crescerà senz'altro oltre il 20%, però siamo ancora a livelli abbastanza ridotti rispetto alla dimensione globale del volume d'affari del cinema italiano. Parliamo di 80 milioni di euro rispetto a un monte globale che supera il 1,5 miliardi, insomma 1,6 miliardi, ecco, questo per dare una dimensione. Però sta crescendo molto. In compensazione di un altro settore che invece sta calando precipitosamente, che è l'home video, cioè il supporto magnetico, il certo. DVD, Blu-ray e così via, che sta perdendo quote di mercato in maniera spaventosa, si è dimezzata negli ultimi 6 anni, insomma. Rispetto alla sala ci sono anche dei tentativi che stanno facendo, delle soluzioni che stanno cercando diversi autori, ad esempio quella dei tour, portano con sé i propri film, li presentano, quindi c'è anche la possibilità di un'interazione con il pubblico, e anche se insomma è un'ipotesi non maggioritaria, però comunque delle soluzioni stanno cercando di trovarle, al di là poi della rete, quindi della possibilità dei video on demand. Sì. E delle piattaforme, però insomma per quanto riguarda il rapporto con il pubblico, ecco, c'è questo elemento delle piccole sale in giro per l'Italia che ospitano proiezioni evento, chiamiamole così. Come hai detto giustamente, un aspetto è quello relativo al peso specifico di queste iniziative, che è veramente piccolo rispetto a un settore che vuole essere industria, certo. Perché non dimentichiamo che il cinema è un prodotto di largo consumo e quindi ha dimensioni mass market, cioè per tutta la popolazione. Queste sono iniziative per ora di piccolo cabotaggio, però l'altro aspetto significativo è che rappresentano una fase iniziale di una segmentazione del mercato che si sta avviando inevitabilmente. Cosa vuol dire segmentazione del mercato? Che le sale, il circuito dell'esercizio sta cercando di offrire alternative nell'offerta di prodotto, da una parte con contenuti che chiamano alternativi o aggiuntivi, ossia trasmissioni in diretta di musical, di concerti live, di eventi sportivi di particolare rilevanza, e dall'altra con iniziative sul posto delle sale, con la partecipazione di autori, coinvolgimento del pubblico. È una segmentazione del mercato che va di parallelo con la produzione, perché abbiamo il cinema d'autore, abbiamo il cinema blockbuster, insomma, di prodotti d'alto consumo, abbiamo cinema anche per pubblico selezionato, come il film d'animazione piuttosto che il documentario. Questa segmentazione del mercato si sta avviando, secondo me, in maniera significativa. Non mi stupirei affatto che fra 2 o 3 anni si verificasse il fenomeno di vedere alcuni film proiettati solo nelle sale, per un anno solo nelle sale, e soltanto dopo veicolati sugli altri circuiti, sulla rete, sui supporti magnetici e in televisione. Mentre un'altra parte di film accede alle sale e poi subito dopo passa agli altri canali secondari di distribuzione. Due fenomeni mi sembrano, insomma, rilevanti rispetto all'ultimo periodo. Da una parte la diffusione dell'animazione, che insomma è una fetta che sta sempre più crescendo. Domina gli incassi. Domina gli incassi, il 3D e quindi la conversione in digitale di molte sale di proiezione, e dall'altra la diffusione del documentario, specialmente in Italia, dove rappresenta un settore in forte crescita e fermento. Certo, e questo va che a beneficio dell'industria e del mercato, perché più si diversifica più si va incontro alle domande del pubblico. Finora il cinema è stato molto ingessato in tutto questo aspetto, cioè era tale, diciamo così, la domanda che procedeva per conto suo. Adesso, complice la crisi, si sta rendendo conto che bisogna andare incontro al pubblico e non soltanto offrirgli i prodotti e poi vedere che risposta si ha. Adesso cerca di andare incontro alla domanda per avere subito delle risposte. Redento, per sapere di più sugli atti di questo rapporto, saranno pubblicati da qualche parte in rete? Sono sul sito dell'ente dello spettacolo www.cineconomy. Per ora sono caricati gli executive summary e il primo capitolo, mi sembra, in italiano e in inglese, e man mano vengono poi caricati tutti gli altri capitoli sia in italiano sia in inglese, e ci sono già tutte le edizioni, le 4 precedenti edizioni del rapporto. Benissimo, a questo punto io spero di risentirti presto. Grazie a voi, io spero. Anche con notizie migliori, probabilmente. Sì. Un abbraccio, Redento. Altrettanto. Ciao. Ciao. Redento Mori per il rapporto 2012, il mercato e l'industria del cinema in Italia. In collegamento con Ginella Vocca, direttrice della 19ª edizione del Mad Film Fest a Roma, in diversi luoghi dal 21 al 30 giugno. Ginella, ben ritrovata. Ben trovati. È un festival che seguiamo sempre con interesse ogni anno, le cinematografie che si affacciano sul Mediterraneo. Dici un po' le caratteristiche di questa edizione. Guarda, questa edizione è, credo che forse sia la più bella tra quelle che abbiamo fatto fino ad oggi. Sono 19 anni che curiamo, che apriamo questa finestra sul Mediterraneo e curiamo la selezione dei film più belli che arrivano da questi paesi, e devo dire che la selezione di quest'anno è particolarmente attenta, rigorosa e concentrata sulla sponda sud del Mediterraneo. Sì. Senti, ma la cosa più, veramente la più importante che mi viene da dire, sì, è che noi cominciamo già domani con un film importante, che è un film simbolico come film d'apertura, che apre la battaglia di Yusri Nasrallah. Sì. Dopo la battaglia, e Yusri sarà qui a Roma, arriva oggi, e gli conferiremo il premio alla carriera sempre domani alle ore 20 all'auditorium del Maxi, perché il Museo Maxxi è una delle sedi, come dicevi tu, del festival. Scusami, ma siamo veramente noi in gergo diciamo che il festival è scoppiato, perché dopo la conferenza stampa il festival scoppia, per cui all'improvviso si manifesta in tutta la sua complessità e bellezza, per cui siamo dietro a tante cose, comprese le novità, come lo spazio che quest'anno dedicheremo ai libri, con incontri quotidiani agli eventi, con scrittori che ci parleranno dei paesi presenti al festival in modo ancora più approfondito. Ginella, quanti paesi e le opere coinvolte? Guarda, i paesi, i film in tutto sono 83. Sì. I paesi coinvolti quest'anno sono 30. E il paese ospite d'onore è la Croazia, non è una scelta casuale, perché dal 1° luglio la Croazia sarà il 28° paese membro dell'Unione, e abbiamo avuto il piacere e l'onore di essere scelti come il luogo dove celebrare culturalmente questo momento storico per un paese vicino che non conosce come noi europei la pace da 60 anni, perché loro sono reduci da una guerra terribile i cui segni si vedono ancora anche nei loro film, e quindi il loro approccio, la loro entrata, il loro ingresso in Europa diventa, il loro punto di vista diventa particolarmente interessante rispetto a noi, che abbiamo in realtà posizioni molto critiche. A questo punto ti chiedo, visto che ne hai citato qualcuno, ne sono previsti chiaramente altri di ospiti? Dunque, insieme alla Croazia abbiamo un focus speciale sulla Grecia, perché ancora una volta stiamo andando a vedere e a farci dare risposte dirette da quelli che sono stati i paesi al centro della discussione politica e sociale degli ultimi mesi. E infatti il paese focus è la Grecia, con una rappresentanza di ottimi film, sia tra i lungometraggi che tra i documentari e di cortometraggi. In particolare il film in concorso per la Grecia si intitola ACAB, ma ha tutta un'altra, questo acronimo ha tutto un altro significato rispetto a quello a che conosciamo noi, esatto. All cats are brilliant è l'acronimo di questa frase, ed è un film appunto sui giovani greci e sul loro orizzonte emotivo e sociale in questo preciso momento storico. Un film molto bello, e sarà presente la regista a raccontarcene la genesi. Paesi del Mediterraneo, però anche dici anche quali sono le caratteristiche che vi spingono a scegliere le opere. Guarda, fondamentalmente noi cerchiamo di riportare e di avere di creare un fortissimo nesso, legame tra il cinema e la realtà. Sì. E cerchiamo attraverso il cinema il racconto simbolico e di quelle che sono le problematiche che più genericamente riusciamo ad afferrare attraverso TG o stampa o reportage. Per esempio c'è un film bellissimo che viene dalla Tunisia. Sì. E racconta la crisi di una coppia borghese lanciatissima da un punto di vista professionale, che si trova invece a fare i conti con un blocco che comunque la rivoluzione genera. Oppure il film libanese, che parla di un feroce attacco terroristico a Tel Aviv, e il protagonista, che è un medico arabo che lavora in Israele, scopre che l'attentatrice è sua moglie. O ancora un altro straordinario momento simbolico è quello del film algerino Yema, che è una sorta di trasposizione dei Sette contro Tebe, in cui c'è una fortezza con dentro una donna che cerca di dare sepoltura al figlio e mentre si scontra con i soldati fuori che vogliono impedire questo semplice gesto. devo dire che i film quest'anno sono veramente, c'è una coerenza straordinaria in ognuno di loro, è come un grandissimo come un romanzo, un affresco straordinario, un romanzo complesso dentro il quale ti perdi con tanti capitoli, uno più bello di un altro, ma uno assolutamente complementare all'altro. In questo senso devo dire che professionalmente siamo molto molto soddisfatti dell'equilibrio generale del festival di quest'anno. E a questo punto ci dai riferimenti per la programmazione per quanto riguarda la rete? Dunque saremo come dicevo il 21 domani mi sembra un giorno lontano, in realtà è domani, a partire dalle ore 20 all'auditorium del Maxi. Conferiremo il premio alla carriera a Yusri Nasrallah, che è un grandissimo regista egiziano, e procederemo con la proiezione del suo film. Poi dal 24 al 30 alla Casa del Cinema e al Cinema dei Piccoli, proiezione tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte, lungometraggi, documentari, cortometraggi e incontri letterari. E il sito internet? Prego? Il sito internet del festival? È le solite 3W punto medfilmfestival.org. Bene, stavi aggiungendo qualcosa mi sembra per... Sì, stavo dicendo che il 28 torniamo al Museo Maxi. Io vorrei ringraziare il Museo Maxi per questa grandissima disponibilità che ha dato al festival, questa apertura importante che sta dando al cinema attraverso accogliendo delle manifestazioni importanti come la Festa di Roma, accogliendo noi, e abbiamo lavorato benissimo, uno staff straordinario, molto smart, molto è una realtà importantissima, interessantissima questa del Museo Maxi dal nostro punto di vista, e lì faremo anche un incontro più attento a quelle che sono gli aspetti commerciali del cinema, ed in particolare gli aspetti legati alla coproduzione tra l'Italia barra Europa e i paesi della sponda sud, compreso anche i paesi arabi, e dunque la distribuzione anche di prodotti che possono avere dei comuni denominatori che li rendono appetibili per entrambe le zone. E poi parleremo anche di Europa Creativa, questo importantissimo progetto, programma europeo che raccoglierà tutto lo scibile della creatività, dalla musica al teatro e al cinema, e al quale noi tutti dovremo far riferimento. E il relatore di questa legge importantissima è l'onorevole Silvia Costa, che sarà presente al forum che appunto faremo il 25 mattina al Maxi. Ginella, io ti ringrazio, un abbraccio e a risentirci presto. A risentirci presto. Ciao. Ciao. Ginella Vocca, direttrice della 19ª edizione del Mad Film Fest a Roma, in tre luoghi diversi dal 21 al 30 giugno. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@landarossa.info, invece la pagina della trasmissione in rete la trovate sia sul sito internet della radio andarossa.info alla voce trasmissioni visionari, sia su Facebook. Al telefono Iris Martin Peralta, direttrice di Exit Media, distributrice di Rughe, un film di animazione che è in tour in Italia. Iris, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Salve, buon pomeriggio a tutti. Come stai? Bene, bene, bene, sì, molto bene. Appena rientrata dalla Spagna, insomma, benissimo. Allora, un piccolo film che è un piccolo caso, perché si tratta di un film d'animazione e riguarda la terza età, ha avuto dei buoni successi, dei buoni riscontri qui a Roma, adesso è in girerà altre città d'Italia. Raccontaci un po' di questa avventura, Iris. Infatti a Rughe, che è infatti il titolo con la stessa parola in spagnolo poi tradotta in italiano, sì. È un film, come tu hai detto bene, di animazione, molto particolare perché è un adattamento di un fumetto di Paco Roca, un autore che poi con questo stesso fumetto fu premio nazionale del comic in Spagna nel 2008, e si è fatto questo processo di adattamento creando appunto questo film che noi abbiamo ritenuto, sin da che l'abbiamo visto, un gioiello. E questa avventura con il film Arrughe, l'abbiamo insomma preso in distribuzione per quello che è il territorio italiano, è iniziata piano piano pensando ad una tipologia di distribuzione un po' diversa da quello che si fa normalmente, che è appunto una grossa uscita in molte città in contemporanea, che poi dopo un mese questo film viene magari sparito, se hai fortuna, magari dopo due settimane nessuno si ricorda più del film che hai fatto uscire. Quello che abbiamo fatto noi è invece lavorare con poche copie e con una strategia di lasting, cioè fino alla fine dell'anno, almeno abbiamo date chiuse fino a fine dicembre, e queste poche copie andranno girando da città in città. Bello. E infatti vabbè, a Roma siamo già usciti appunto al cinema Farnese e al cinema Aquila, e con un po' di fortuna anche faremo una seconda fornata a Roma a settembre, ottobre. Sì. E poi in questo momento abbiamo finito a Mantova proprio ieri, e dalla prima settimana di luglio siamo a Cagliari, poi saremo a Trieste e poi così via dicendo per arrivare insomma a settembre alla Spezia, Lerici, Milano, Bergamo, Bologna, insomma Firenze, qua sarebbe insomma questa lista di città che per il momento sono già 25 fino a fine anno. Beh, come dicevo, e speriamo che si aggiungano tante altre, perché se una cosa all'Italia è proprio città molto molto interessanti come realtà locali per lavorare con, sì, un circuito del cinema insomma non americano, ecco. Senti Iris, qual è lo spirito che è piaciuto di questo film? Beh, il film come dicevo è molto particolare, ci sono tanti spunti che lo fanno davvero interessante, e da una parte questo che io riferivo all'inizio, che è proprio un adattamento di un fumetto, qui che questa è già un'operazione paradossalmente molto strana, no, che si è fatto insomma con film noti, con fumetti americani eccetera, però che abbiamo insomma Superman in uscita, l'uomo d'acciaio in questi giorni, però che nel cinema europeo è piuttosto strano, quando invece il fumetto, cioè il storyboard per esempio, sarebbe un riferimento diretto, no, a questo, sì, a queste due arti che alla fine si avvicinano tanto. In questo caso il film Arrughe, che fu premiato con il premio Goya, che sarebbero gli Oscar spagnoli, come miglior adattamento di un fumetto. Quindi a questo caso viene come punto di interesse primo questo processo di adattare un fumetto proprio nello schermo, no? Sì. E come secondo punto la tematica. Questo è un film che parla di anziani, che parla anche di qualche insomma malattia legata alla senilità, però non è un film apparentemente che potrebbe appunto trattare tematiche che ci farebbero un po' difficili, ecco. Lo tratta con un tono, con una ironia, con una sottigliezza che lo rendono a tratti un film dove insomma si scoppiano le risate in sala. Sì. E il terzo punto di grande interesse, riteniamo che sempre cinema de qualità europeo, no? In questo caso anche se i nostri riferimenti potrebbero essere film non europei come il caso di Vals con Bashir o il caso di Persepoli, stiamo parlando comunque pur sempre del cinema europeo di qualità. Sì. Senti Iris, per sapere le varie tappe delle città italiane c'è un sito internet a cui fare riferimento? Sì, il sito che abbiamo un po' dove come certamente le città ancora le date di dicembre ancora non ce l'hanno, magari una città o l'altra, no? È un processo di distribuzione che è un work in progress, si va facendo anche con la strada, no? Poi dopo il riscontro di Roma se sono aggiunte altre città, come dicevo. E il sito è www.arrugasilfilm.exitmedia.org. Benissimo. Allora Iris, io ti abbraccio, un in bocca al lupo per quanto riguarda questo tour italiano fino a dicembre, e a risentirci presto. Grazie, un saluto a tutti voi. Aspetta un attimo in linea. Sì. Siamo in collegamento con Piero Balzoni, regista del documentario Autobiografia dell'Università Italiana. Piero, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, grazie mille, buongiorno. Allora, avevo visto di questo tuo lavoro presente ad un festival, adesso non ricordo quale, il Roma Independent Film Festival, mi sembrava molto interessante già dal titolo. Dici un po' di questa storia. Sì, il documentario è autobiografia dell'Università Italiana e l'obiettivo era un po' quello di raccontare la fotografia, insomma, di un momento storico particolare, ossia l'entrata in vigore del decreto Gelmini, che è quello che attualmente, insomma, è al momento delle università italiane, anche nella scuola. E quello è stato un momento storico piuttosto particolare. Noi abbiamo già scelto di girare un documentario sul tema della ricerca scientifica, sì, che è diciamo, tu saprai bene, è una delle branche più bistrattate, diciamo, dell'università, sì, del mondo universitario. E mentre avevamo iniziato a lavorare già in produzione di questo documentario, è iniziato il dibattito sulla legge Gelmini, e di lì, insomma, il documentario ha preso un'altra piega, nel senso che si è sommato a quello che alla storia che stavamo raccontando prima, sì. E a quel punto ci è sembrato giusto diciamo dare il peso che meritava al dibattito sulla riforma, che è avvenuto non soltanto nei palazzi, appunto, ma anche nelle strade. Uno dei punti critici che mettevi in risalto è quello della ricerca. Ecco, facci un po' un quadro della situazione che avete trovato, riscontrato nei vari atenei che avete girato rispetto proprio al discorso cultura, ma anche diritto allo studio. Questo è un tema un po' delicato. Ho scelto di girare, di realizzare questo documentario perché ho fatto parte tuttora del mondo accademico, sia che ho terminato da poco un dottorato di ricerca, è un'attività che per me, insieme a quella della scrittura e della regia, è andata di pari passo, insomma, fino ad ora. Quindi ho ritenuto giusto parlare di quello che è il mondo accademico, perché di fatto i ragazzi che frequentano i nostri atenei non hanno le chiare sul mondo accademico, cioè chi sono i professori, che cosa fanno, se ci sono, e soprattutto non sanno che gran parte dell'attività accademica è di seguire i ragazzi, preparare gli insegnamenti, le lezioni. Ecco, gran parte di questa cosa qui viene fatta dai ricercatori, precari o meno. Sì. I precari della ricerca in realtà sono poi grossa parte del centro tematico del documentario, fanno questo. Ora, i ragazzi credono che questa cosa qui sia un'attività di lecchinaggio dei professori ordinari di cattedra. In realtà non è così, fa parte ovviamente delle attività didattiche, ma di fatto è la dimostrazione più grande di amore e di passione verso l'insegnamento e verso gli studenti. Questa è una cosa che possiamo guardare con mano se andiamo in qualunque ateneo, non soltanto gli atenei romani, che insomma sono un po' i protagonisti di questo documentario, ma non solo, perché è un documentario itinerante. Siamo stati a Torino per il G8 universitario, gli scontri a Milano, a Roma, insomma ci sono un po' tutti gli atenei dentro. Però quello che non sanno gli studenti è che di fatto i famosi assistenti, quelli che fanno talvolta le veci dei professori o che collaborano alla didattica, più che collaborare, molto spesso la fanno, e la fanno a costo zero, solo con la passione, unendo a questo anche la ricerca, che poi invece è il nodo cruciale della loro attività, per ricercare. E rispetto agli atenei, ecco, quanti sono gli atenei che avete visitato e avete notato differenze da città a città? Veramente le differenze ci sono, sono un po' alla base del nostro documentario, per mostrare anche il discorso dell'ateneo ad ateneo. Il nostro di fatto vuole rimanere anche un discorso più generale sull'attività di ricerca svolta in qualsiasi ateneo d'Italia. Però di fatto lo vedrete, chi vedrà il documentario, le differenze emergono un po' da sole. Noi siamo stati a Milano, siamo stati a Trieste, siamo stati a Torino, siamo stati insomma in molte città d'Italia per vedere com'era la situazione, visto che lì c'è, si dice, la didattica migliore. Veniamo ovviamente dagli atenei romani e quindi in primis dalla Sapienza, però di fatto quello che era il nostro obiettivo era cercare di più che far emergere differenze, far emergere le somiglianze, cioè quei temi che accomunano gli Atenei tra loro, e quindi non soltanto Sapienza, Università di Roma, ma anche Roma 3, il Politecnico di Milano. Insomma, ci sono gli Atenei da cui si muove un po' il centro delle proteste, mm-hmm, solitamente, non soltanto per l'attività pratica che fanno di lavoro, anche di discussione con gli studenti, ma anche perché c'è un retaggio storico che gli appartiene di più e che un po' guida i movimenti quando questi nascono. Per sommi capi, Piero, quali sono le eccellenze e quali i mali dell'università italiana? Oggi si fa un gran dire sul baronaggio, diciamo, cioè sull'attività dei famosi baroni, no? Questo è sicuramente un male endemico di cui parliamo anche nel documentario, e che esiste laddove per barone si intende appunto una persona, un professore che accentra nella sua figura vari poteri e quasi disinteressandosi dell'insegnamento in sé. Ora, questo è un male endemico, c'è, ci sarà sempre. Naturalmente non ci credeva nessuno quando la ministra Maria Stella Gelmini ha messo in piedi la sua riforma, che questo fenomeno sarebbe scomparso. Non è ovviamente scomparso, attiene alla natura stessa degli uomini che scelgono di comportarsi, delle donne che scelgono di comportarsi in questo modo, ma è chiaro che se io domani metto a capo di un dipartimento una persona che non è in grado, domani ci ritroveremo con un peso, con delle conseguenze gravi per tutto l'Ateneo. Quindi questo attiene più all'attività che l'uomo di per sé fa, che il professore di per sé fa. Difficilmente si sarà mai una riforma che possa mettere, diciamo, che possa tra l'altro arginare un po' questo fenomeno. È difficile, perché attiene purtroppo, chi lavora nel mondo accademico lo sa, la natura dei professori. Mm-hmm. Questo dal lato dei mali. Dal lato diciamo, il lato positivo dell'università è che non possono non esistere. Questo dobbiamo tenerlo bene a mente, secondo me. Gli studenti e i ricercatori che noi abbiamo visto in piazza durante gli scontri, che vedrete nel documentario, appunto, si battono per bene comune. Non è che bisogna tanto ricercare i lati positivi, bisogna rendersi conto della necessità intrinseca. Per noi l'università è un concetto più che strutture, atenei, corsi, l'università è cultura ed è insegnamento, sono due cose che non potranno non esistere nel futuro, quindi di fatto vanno salvaguardate a prescindere. Bene. Senti, Piero, in chiusura, dacci dei riferimenti, se c'è un sito internet dedicato proprio al tuo documentario e se ci sono in programmazione delle presentazioni, delle proiezioni. Allora, noi abbiamo un sito internet del documentario. Ovviamente vi invito a digitare, siccome siamo gli unici con un nome così composito, diciamo, quel nostro, vi invito a digitare su Google autobiografia dell'Università Italiana per avere informazioni al riguardo, vedere i festival a cui il documentario ha partecipato, ma soprattutto c'è un trailer che è un po' esplicativo di quello di cui abbiamo parlato ora in questa diretta. E poi ovviamente saremo presenti, sì, questo lo posso già confermare, però non abbiamo ancora date definitive. Saremo a Milano in settembre e saremo a luglio al Gifoni Film Festival. Bene. D'altronde ormai l'onda, forse è il caso di dirlo anche a voi, Radio Nero, anche per noi l'onda è iniziata, e quindi ormai viaggio a spedita, insomma. La ministra Gelmini, che non ha voluto rilasciarci la sua intervista e il suo contributo, pur avendola cercata, l'avete visto, insomma, di questa cosa qui, anche se tardi ormai, perché è passato un po' di tempo, secondo me un pochino le fischieranno le orecchie, insomma. Piero, un abbraccio, a risentirci alla prossima. Grazie a voi, ciao ciao ciao. Piero Balzoni, regista del documentario Autobiografia dell'Università Italiana. Visionari su Radio Onda Rossa ogni giovedì dalle 14 alle 15. Proseguiamo con gli ospiti. Pietro Faiella, regista del progetto di film Strafunne. Ben ritrovato, Pietro. Ciao Federico, ciao a tutti, ben ritrovato a te, ben ritrovati a voi, grazie. Dico ben ritrovato perché tu sei stato già nostro ospite per il radioteatro, giusto? Assolutamente sì, Mondocane. Mondocane, esatto. In scena all'Argo, che avete mandato in onda paio di anni fa, credo. Sì, sì, sì, sì, sì. E raccontaci allora di questo nuovo progetto che prevede, insomma, una trasposizione dal cinema al teatro, dal teatro al cinema, e a cominciare da un titolo strafunne che forse dovremmo spiegare. Sì, diciamo, il testo, per chi lo aveva ascoltato quando l'avete mandato in onda e per chi l'aveva visto al Teatro Argo la settimana che è stata in scena, era un testo che parlava di un ritorno, diciamo, a una terra di origine dove, diciamo, il dramma che si produceva generava una riapparizione del dialetto originario del protagonista in maniera dirompente, anche tragica e drammatica, e quindi diciamo, l'evoluzione che c'è stata con la trasposizione cinematografica ha portato a esaltarne maggiormente, diciamo, gli aspetti di thriller, di noir psicologico, diciamo, diciamo anche western psicologico thriller, e il titolo che mi è venuto più azzeccato in testa, appunto, che mi si è messo in testa, è questo strafunne che genericamente, diciamo, al sud, in Abruzzo in particolare, indica il precipizio, l'abisso, diciamo uno sprofondo, però contemporaneamente anche un altro significato rispetto allo strafondarsi di alcol, di vino, che era una tematica che, se ti ricordi, dentro lo spettacolo segna pian piano la discesa del protagonista insieme al delirio alcolico, anche, diciamo, la riapparizione dell'inconscio. Ecco, da qui strafunne, abisso, precipizio. Precipizio. Pietro, però, per chi ci ascolta, diamo anche qualche riferimento in più di trama, qualcosa l'hai già indicata, però, insomma, diamo un po' più un quadro. Sì, cioè, diciamo, la trama è il ritorno in un luogo, in realtà è il luogo della propria infanzia, il luogo dove ci sono i propri amici, in una provincia diciamo profondamente confitta dentro le montagne abruzzesi, dove il protagonista, che ormai da anni vive nella metropoli, diciamo vive a Roma, torna per rincontrare questi amici che non vede da tantissimo tempo. In questo incontro, che ha così una matrice un po' di scoperta di non aver molto da dirsi con questi con questi amici legati da un affetto della memoria, il protagonista incontra invece un personaggio che parla soltanto in dialetto, che vive quasi in uno stato di brutale animalità, il quale lo accusa di un di qualcosa che è accaduto 30 anni prima, e da questo conflitto iniziale che avviene tra il protagonista, diciamo il coprotagonista, si scatena questa discesa, diciamo, agli inferi nell'interiorità psicologica, ma anche proprio poi materialmente e fattivamente dentro la trama, come discesa nell'abisso, nello strafunne, appunto. Cosa stava alla base dello spettacolo teatrale? Cosa ti aveva interessato, ti aveva spinto a raccontare questa storia? Proprio il fatto che dentro questa radicalità originaria del dialetto, che sempre esprime una verità più profonda, è tipico. Io ho fatto l'Accademia d'Arte Drammatica ormai 20 anni or sono e passa, spesso gli insegnanti di teatro, per far dire a un allievo qualcosa meglio di come riesce a dirla in italiano, dice: farla nel tuo dialetto, e nel dialetto immediatamente prende quella frase, quella battuta, una verità inaudita. E questa cosa, unita al fatto che io ho sempre avuto un rapporto idiosincratico con il mio dialetto, cioè il dialetto abruzzese, che poi rappresentativamente e anche cinematograficamente è sempre stato visto, diciamo, il dialetto del cafone, il dialetto che fa ridere. Invece io l'ho sempre vissuto come un dialetto drammatico e di aggressività. Ecco, questi 3-4 elementi mi hanno prodotto questo lavoro. Poi è stato un lavorio abbastanza lungo, perché anche il testo è partito prima da un monologo, poi nel 2008 l'ho completato, nel 2010 è andato in scena al Teatro Argo, nel 2012 tu l'hai mandato in onda, e ora stiamo concludendo le riprese del film, la tessitura. Ecco, mi interessava questo aspetto dell'arcaicità, ma anche dell'accezione violenta e aggressiva che attribuisci al dialetto. Perché questa caratteristica viene fuori della tua lettura? La caratteristica esce fuori perché la maggiore vicinanza con una verità interiore, sì, secondo me, del dialetto produce una maggiore vicinanza con una fase istintuale e animalesca dell'individuo, che normalmente è vista, diciamo, dal côté dell'uomo civile, viene vista come qualcosa di risibile che viene tenuto a distanza, ma se ci si ficca dentro a questa materia si scopre che il dialetto produce un'immediata vicinanza con ciò che di originario e più animalesco possiede l'uomo stesso, cioè il rapporto con il sangue, con la morte, con l'uccisione degli animali per nutrirsi, con tutto ciò che è molto più vicino all'originario, diciamo, ecco, la radice della mia indagine, diciamo. Senti Pietro, raccontaci a questo punto anche come è possibile contribuire in qualche modo al progetto, visto che, se non sbaglio, avete scelto la piattaforma Produzioni dal Basso. Sì, noi diciamo siamo partiti l'anno scorso con la piattaforma di Produzioni dal Basso, dove non siamo riusciti a raggiungere la cifra che volevamo. E abbiamo scelto quest'anno di utilizzare la stessa formula senza metterci sulla piattaforma, pur notevole, pur straordinaria come strumento, ma data diciamo appunto noi abbiamo avuto una fortuna, abbiamo individuato una location straordinaria che è questo rifugio Casale d'Altamonte, che è ai piedi del Velino, si trova a 1200 metri di altezza, dove i proprietari gentilmente ce l'hanno messa a disposizione per un rimborso spese veramente esiguo, quindi noi dovevamo necessariamente per una location girare a maggio. Allora abbiamo messo su un sito molto rudimentale che è www.strafunne.it, sul quale abbiamo fatto partire, sulla base di quello che avevamo fatto su Produzioni dal Basso, senza raggiungere, il nostro crowdfunding. E questo crowdfunding ha portato un po' di materiale produttivo. Il film, lo ricordo, è coprodotto da Dipartimento di Comunicazione e Spettacolo dell'Università Roma 3 e Sulmona Cinema, il festival su Sulmona Cinema, fa da produttore centrale all'interno di questa produzione assolutamente più che dal basso, con naturalmente il sostegno di tutti gli attori e di tutta la troupe, che sono appunto in attesa della possibilità che il finanziamento di chiunque voglia darci un suo sostegno possa almeno limitare le spese di tutti quelli che ci hanno investito. Bene Pietro, allora a questo punto ci risentiamo quando ci sarà il risultato finale. Assolutamente, ora io sono al montaggio della prima parte, poi sicuramente gireremo entro l'estate con il sostegno di tutti coloro che vorranno farlo, www.strafunne.it, dove ci sono tutte quante le modalità, poi lo monteremo, finiremo il montaggio e poi sicuramente ci vedremo per la prima proiezione, quello è bene. Scontato e certo. Ti ringrazio tanto Federico, ringrazio tutti e saluto tutti. Bene, un abbraccio, a presto Pietro. Grazie, a presto, ciao. Un saluto. Pietro Faiella sul progetto film Strafunne. Continuiamo a parlare di un teatro che si trasforma in cinema con Giuseppe Bisceglia, che è il regista del progetto biografia della peste, il film. Giuseppe, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Allora continuiamo, perché abbiamo appena parlato con Pietro Faiella per Strafunne, che viene dal suo spettacolo Mondocane. In questo caso raccontaci un po' di cosa si tratta. Sì, in questo caso l'esperimento credo sia abbastanza simile, anche qui da un'opera teatrale dei Maniaci d'Amore, ovvero Francesco D'Amore e Luciana Maniaci, che sono un duo di autori, attori. È stato realizzato un film, un mediometraggio che ha la durata anche di un'ora come lo spettacolo, ed è una coregia tra me e un altro regista, Andrea Tomaselli, un'operazione credo e spero felice che è già terminata ed è stata presentata al Festival delle Colline. Tratta di amore e di morte, fondamentalmente di morte principalmente, due temi importanti della narrazione. Se vuoi ti dico qualcosa in più della trama. Certo, spieghiamolo soprattutto a chi ci ascolta. Certo, un ragazzo, il pretesto nasce da questo ragazzo che viene investito una mattina e torna a casa la madre dicendole di essere morto. Il registro è totalmente surreale, non so, il riferimento teatrale potrebbe essere Ionesco, ma quello registico potrebbe essere un Fellini piuttosto che un Tim Burton, non terribile, perché la storia è molto interessante. Questo ragazzo torna a casa dalla madre dicendole che è morto e la madre non vuole lasciarlo andare. Lui ha dei forti problemi di comunicazione per questo rapporto ansioso e resistente con la madre, così lui stesso lo indica. E quindi nella prima parte c'è tutto un tira e molla, perché la collettività non deve sapere che questo ragazzo è morto, perché morire in questo paese non è carino. Lui però vorrebbe sfruttare questa opportunità proprio per andare dall'altra parte e quindi abbandonare la madre. E il paradosso poi è che il barco è rappresentato da un frigorifero, che è la simbologia è altissima durante tutto il film, lo spettacolo, perché ad esempio il padre di Chris, questo ragazzo, è un cavolo, il barco è rappresentato da un frigorifero e lui ha un amore che ritroverà nel mondo dei morti. Mm-hmm. Quindi c'è anche un capovolgimento, il mondo dei vivi in cui siamo nella prima parte è probabilmente il mondo dei morti, il mondo dei morti dall'altra parte invece potrebbe rivelarsi un mondo di vivi. Giuseppe, che tipo di trasposizione avete fatto rispetto al linguaggio teatrale e il passaggio a quello cinematografico? Dov'è stato lo sforzo e su cosa avete voluto puntare? Abbiamo voluto puntare soprattutto sul testo, cioè nel senso sulla forza delle battute e di tutta la storia proprio creata da Francesco e da Luciana. Manteniamo uno stile molto teatrale, direi, però infatti una buona parte del film è girata a teatro, ma alterniamo stacchi continui in montaggio con due location esterne che sono un ex cimitero qui a Torino e l'altro invece è un campo disperso nel nulla ad Alessandria, un campo brullo. Mm-hmm. E questo ci permette di staccare, diciamo, dalla scena teatrale e invece andare al cinema. Lì, con movimenti di macchina, abbiamo sottolineato molte cose. E poi la cosa che sia per quanto mi riguarda, che anche per Andrea è stata molto molto bella, è stato proprio il fatto di poter abbracciare la storia con diversi stili registici, perché la storia si presta, il tema è surreale e è stato anche molto divertente. Anche poco sforzo, noi dal primo spettacolo della prima versione di Biografia della Peste abbiamo cambiato leggermente qualcosa, abbiamo chiesto a Francesco Luciano di fare dei cambiamenti anche un po' sul testo e sulla messa in scena proprio, e loro li hanno accolti poi anche a teatro, quindi adesso le due cose, diciamo, sono completamente parallele. Mm-hmm. Ecco, dopo il film è stata cambiata anche la versione un po' teatrale, quindi le due cose sono molto simili, quindi uno ha influenzato l'altro, diciamo, in qualche modo. Sì, diciamo così, è stato anche un bel lavoro, loro sono stati molto aperti anche a recepire i consigli e i suggerimenti miei e di Andrea. Mm-hmm. E per saperne di più in rete, dove è possibile cercare per Biografia della Peste? Ancora per il momento non è online, però sul sito del Festival delle Colline, perché è stato presentato in occasione del Festival delle Colline qui a Torino, c'è stata l'anteprima al cinema Massimo. Ancora per il momento online non è possibile trovare nulla. Abbiamo intenzione di intraprendere un percorso prima, diciamo, di festival, e sì, poi sì, magari anche speriamo di una piccola distribuzione. Tra l'altro ci tengo a dire che questo è stato anche un progetto di cinema totalmente indipendente, coprodotto da Indica Film e Nido di Ragno, ed è stato un film di incontri anche, ecco, perché le musiche fatte da Fabio Barovero, che è un compositore affermato, insomma, era la conferenza stampa lì, l'incontro anche con Luciano Francesco, l'incontro anche con altre persone che hanno lavorato tantissimo senza, ovviamente, hanno fatto una campagna di crowdfunding, ma ovviamente senza troppe risorse, e devo dire che si è creato veramente un bel clima, quindi anche un tipo di cinema indipendente che viene dal teatro che secondo me va anche supportato. Bene, Giuseppe, allora a questo punto aspettiamo notizie da parte vostra, nel frattempo i migliori auguri, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie mille e un saluto affettuoso, grazie. Ciao Giuseppe. Giuseppe Bisceglia per il progetto Biografia della Peste, il film. Con lui chiudiamo l'appuntamento con Visionari di questa settimana. Vi rimando alla prossima, giovedì, dalle 14 alle 15. Tutte le informazioni le trovate sul sito internet della radio, ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari. Idem per quanto riguarda Facebook, c'è la pagina Visionari. Per scriverci l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.